Monelog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Si è creato un sistema enorme di indotto che deve arrivare alla disabilità, che ha un costo enorme, ma il terminale, che è il disabile, alla fine di tutto questo indotto riceve nulla. Abbiamo dimostrato che è possibile fare, non abbiamo fatto un servizio alternativo, ma abbiamo fatto un servizio migliore tutti insieme, genitori, famiglie che si sono unite. Nella storia di moltissime cooperative sociali c'è proprio questo elemento, molte cooperative sociali che si occupano di disabili, per esempio, nascono così, le famiglie si mettono assieme, cercano risposte, cominciano a capire che il volontariato è importante, aggregano volontari, ma poi fanno il passaggio anche verso la professione. Cioè significa che la politica ha creato un maxi... Ci siamo lasciati su questo nella giornata di ieri. Oggi riprendiamo il filo del discorso abbandonato e concludiamo questa settimana speciale di Radio 24 dedicata ai problemi del sociale, alle categorie deboli, alla disabilità, alla non autosufficienza. Lo saprete, vi sarà comunicato poi nei giorni a seguire da persone ben più autorevoli di me, ma Radio 24 intende mantenere questa sua presenza, questa sua attenzione, questa sua presa diretta in un mondo che oggi sembra molto poco interessante anche per la politica, che si sta muovendo a 360 gradi, sta promettendo, sta immaginando, sta dicendo che riformerà. Però del sociale non mi sembra di aver sentito grandi interventi da nessuna parte, lo dico in maniera totalmente trasversale e totalmente priva di punti di vista particolari o di pregiudizi ideologici. Radio 24, come vi ho detto, darà un suo identificativo sonoro a delle aree particolari del suo palinsesto che dedicherà al sociale. Vi renderete conto, e vi sarà comunicato come, quando avrete un particolare segnale, un identificativo, vuol dire quel servizio del giornale, quella rubrica, quella trasmissione, quel particolare intervento si sta occupando di questo settore, di cui abbiamo cercato in questa settimana, nei limiti del tempo e delle nostre possibilità, di dare un primo sguardo trasversale, ma entreremo ancora più in merito. Oggi riprendo il discorso che ho abbandonato ieri, che in fondo è la grande domanda: qual è la soluzione dei problemi? Siamo in un momento oggettivamente indubitabile di profonda crisi. Tutti sentiamo sulle nostre spalle il peso di questa crisi, lo sentiamo concretamente, materialmente, lo sentiamo emotivamente come angoscia, paura del domani, di quello che verrà, della situazione che potrebbe peggiorare. Al momento esiste una fetta importante di popolazione fatta non soltanto di categorie deboli, ma dell'indotto familiare, emotivo, affettivo, dei rapporti che sta attorno a queste persone. Guardate, è una massa di persone impressionante. Beh, per queste persone la crisi è qualcosa di più, qualcosa di molto più complesso, perché non è semplicemente un taglio al budget individuale, familiare, una paura di vita più grama, è semplicemente e crudamente il timore di non poter più avere le risorse basilari per poter vivere. Qual è la soluzione? Sappiamo che è molto difficile e praticamente sta al di fuori delle possibilità concrete di essere esauditi, chiedere altre risorse, ulteriori risorse, un numero di risorse sufficienti alla cosa pubblica. Sappiamo anche, come è stato detto nell'altra puntata, nella puntata di ieri, che esiste la favolosa, fantastica, immaginifica e invidiabile arma del volontariato. Tante persone si danno da fare volontariamente, spontaneamente, gratuitamente, generosamente nei confronti di chi ha bisogno. Ma è sufficiente questo? Non esiste una terza via, una via che mette insieme tutto quello che già esiste in vista di una razionalizzazione del problema. Dirò qualcosa che forse mi procurerà astio da parte di molte persone, ma la lancio lì come provocazione, poi vedrò se i miei ospiti mi daranno ragione o integreranno o troveranno elementi avversi a quello che dirò. Ma non può essere trattato il terzo settore, la disabilità, l'emergenza, le categorie deboli, come un bravo imprenditore tratta il suo prodotto, il suo cliente. Non ci può essere una maniera etica di trasformare in un'impresa quella che è questo grande mondo variegato di cui ci ha detto la collega Furlanetto, che oggi interverrà in trasmissione, che in realtà è soltanto una piccolissima parte di tutta la massa enorme di denaro che gira. Nel sociale gira in Italia tanti soldi quanti ne girano girano il mondo della moda. Fatevi un esempio, perché ancora qualcuno si lamenta? 800 24 00 24. Michele Colangelo, buongiorno. Buongiorno. Michele Colangelo, l'abbiamo sentito ieri, è collaboratore del sindaco di Roma per le politiche della disabilità Roma Capitale, e è una persona molto esperta, sulla sua pelle vive la condizione di disabile, ma allo stesso tempo ha un grande interesse e grande tecnica, cognizione di trattare questo problema. Che ne dici, Michele, dell'inizio che ho lanciato io? Può essere trattata come un'impresa il sociale? Ma tu hai più elementi di me, io lo butto su mia esperienza personale. Il problema è questo: il sociale è già trattato come un'impresa. Probabilmente bisognerebbe domandarsi se è possibile trattarlo come un'impresa che sia a disposizione delle persone che hanno bisogno del servizio, perché il vero tema è questo. Oggi il terzo settore sposta centinaia di milioni di euro, ma risposta male, perché tutto è finalizzato all'impresa e non al terminale. Il problema è proprio questo, cioè se noi riusciamo a costruire un sistema di welfare dentro il quale la priorità viene assunta dalla persona e attorno a questo poi si ragiona, non il contrario, allora noi costruiremo un sistema di impresa virtuoso. Ma per fare questo, e cito un esempio che faccio in tutte le assemblee, nei luoghi dove mi capita, bisognerebbe che tutti i partiti partissero da questo presupposto. Io faccio questo esempio: nelle guerre, quando ci sono i bombardamenti, si mettono sempre in salvo le donne, i bambini, i disabili, le persone fragili, perché ovviamente sono quelle più esposte. Noi dobbiamo immaginare che questa è una guerra, anche se ha i caratteri di una guerra economica, che non è per questo meno cruenta, certo. Ecco. Allora bisognerebbe stabilire da parte della politica che il sociale è prioritario e non può essere in alcun modo tagliato, ma deve essere imposto agli enti locali, comuni, regioni e province, tutti coloro che concorrono, delle regole precise di tracciabilità della spesa e di programmazione della spesa per dimostrare ogni euro speso in che direzione va. Esattamente partiti... quello che ci diceva ieri Valentina Furlanetto, non c'è trasparenza, chi si occupa, chi gestisce, chi attinge a questi fondi, vuoi fondi nazionali, fondi europei, fondi dati da aziende, da grandi benefattori, in realtà non ha l'obbligo di un rendiconto esatto di quanto incassa e come li usa. Ma nemmeno lo Stato lo fa, cioè Roma per la prima volta ha adottato una riforma domiciliare dove finalmente i soldi vengono posti dopo, mentre invece molte forze politiche esigono che fossero inseriti prima. Inserire prima il denaro significa la spartizione, significa la corsa a prendersi denaro e a disperderlo. Bisogna prima costruire il contenitore, fare le regole, dentro le regole stabilire il percorso del denaro, esattamente l'inverso. Fermati un attimo Michele, dunque riassumo, può essere un'impresa, ma l'impresa deve soddisfare comunque il proprio cliente, quindi deve esserci un mercato, quindi non essere un'impresa che specula, un'impresa che comunque costruisce scarpe che si sfondano subito, automobili che non funzionano, case che crollano, come è l'aspetto truffaldino e speculativo dell'impresa. No, adesso è un'impresa che soddisfa il suo cliente, quindi si conquista il suo mercato. Arianna Fanulli, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Allora, Arianna Fanulli ve la porto come esempio, come case history, vediamo se funziona. Arianna Fanulli è general manager di Agetica, che è un'agenzia etica per il terzo settore. Arianna, tu vivi del tuo lavoro e il tuo lavoro si occupa di sociale. Esiste una maniera etica per fare imprenditoria nel sociale? Assolutamente sì, perché in attesa delle decisioni politiche amministrative, quello che l'agenzia Agetica vuole fare è quello di supportare il terzo settore nella realizzazione di progetti che siano finalizzati ovviamente al miglioramento delle attività dell'associazione stessa e supporta le associazioni che più delle volte sono ovviamente composte da persone che si riuniscono per dei bisogni e quindi possono avere dei background diversi da quelli di un'organizzazione di marketing o di comunicazione, per realizzare dei progetti che siano appetibili per le grosse aziende. Allora, ti porto alla razionalizzazione, dimmi se sbaglio, tu vai cercando soldi a chi ce li ha, convincendolo di investire i suoi soldi in progetti di valore etico, di valore sociale, che porterebbero avanti le associazioni. Qual è, diciamo, il punto di caduta? Chi c'ha i soldi, perché dovrebbe investirli nel settore, nel terzo settore? Perché innanzitutto si chiede alle aziende un comportamento socialmente responsabile, e quindi le grosse aziende devono comunque fare questo tipo di attività e supportare le iniziative sociali. Questo è nella natura delle soprattutto multinazionali, ma anche delle PMI. E la differenza è che fino a qualche tempo fa questi soldi venivano dati senza un resoconto, quindi le associazioni che a volte potevano godere di questi fondi, di questi versamenti, non sempre li adottavano o li utilizzavano secondo scopi ben precisi. L'agenzia fa proprio questo, realizza dei progetti che possono essere monitorati e rendicontati, quindi l'azienda che decide di investire in quel sociale per quella causa avrà un rendiconto al dettaglio, all'euro, di come sono stati spesi i soldi. Ecco, e qual è, diciamo, la ragione sociale del tuo lavoro? Chi fa un lavoro come il tuo non deve farlo naturalmente per volontariato, per sentirsi buono, anche no, per questo se no, vuole. No. Qual è il tuo guadagno, tanto per essere chiari? Allora, io la prima parte della progettazione, il supporto che do alle associazioni è in forma gratuita, perché se il progetto non va in porto, essendo un'associazione che non fa profit, non posso chiedere dei soldi. Ma nel momento in cui... C'è il tuo rischio di impresa, quindi. Esatto. Nel momento in cui però io riesco a portare questi soldi, questi finanziamenti, percepisco una percentuale che è contrattualizzata all'inizio del rapporto con l'associazione. Quindi non si esce da questo. E questo mi sembra chiaro e trasparente. Altro punto. Nella grande rappresentazione comunque delle grandi iniziative legate al sociale, quelle che si vedono in televisione, quelle di cui parlano i giornali, grandi testimonial, in realtà tu che il problema lo conosci da dentro, qual è il punto di caduta? Quando ti chiede l'azienda, ad esempio, dice sì, io investo i soldi, però magari su questo progetto ci vuole un VIP come testimonial. Questi VIP che sono tanto personaggi dello spettacolo, della cultura, dell'informazione, che si prestano a dare la loro faccia in grandi progetti, lo fanno sempre spontaneamente, gratuitamente, perché sono buoni? Per la mia esperienza ad oggi la percentuale di quelli che lo fanno spontaneamente è sotto sicuramente il 5%. Gli altri comunque richiedono dei cachet che sono pari a quelli che richiederebbero per qualunque altro tipo di attività. Ti faccio un esempio, se diamo un esempio concreto. Se tu vai da un noto comico che si vede in televisione con una certa notorietà, gli dici mi vieni a fare una matinée per i bambini malati terminali per questa associazione, cosa ti risponde? Quanto vuole? Vuole anche dalle 6 ai 7.000, 8.000 euro. E se non gli arriva il bonifico prima della giornata, non si presenta. E a volte fa anche degli spettacoli, chiamiamoli ridotti, rispetto a quelli che normalmente fa, dove fa pagare un biglietto. Queste sono esperienze concrete abbastanza recenti. Oliviero Motta, buongiorno. Buongiorno. Vicepresidente della cooperativa sociale Intrecci, presidente di Copero, che è un consorzio che riunisce 21 cooperative lombarde impegnate nella promozione e gestione di servizi alla persona, all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate. Lei quindi, dalla sua esperienza rispetto alle testimonianze che abbiamo portato, esiste una via alternativa rispetto all'andare a chiedere spontaneamente, individualmente allo Stato, aiutaci, dacci qualcosa, che è la tipica disperazione della famiglia, o un passaggio ulteriore, cominciare a creare degli organismi che abbiano tutte le strutture di una vera impresa, naturalmente un'impresa etica, quindi non è un'impresa che specula, un'impresa che ha il giusto profitto perché dà il giusto servizio. Certo, esperienze ormai ce ne sono veramente tante. Quella che in cui io lavoro è un'impresa a tutti gli effetti, è un'impresa però non a scopo di lucro. Secondo me bisogna distinguere tutto quello che è raccolta fondi e che appare nei grandi progetti nazionali da quello che è invece la resa di un servizio, spesso non per lo Stato ma per gli enti locali, quindi collocato su un territorio preciso in cui è più facile misurare gli effetti delle cose che si fanno, con interlocutori, clienti, diciamo così, precisi, che se tu gli fai un servizio pessimo si lamentano, giustamente. Insomma, bisogna distinguere lo Bisogna anche vedere quanto, diciamo, la lamentela in questo caso di una famiglia con un disabile, di persone deboli, poi comunque scalfisca, certo, il desiderio comunque di speculare. Beh, vale sempre la regola che da soli si pesa pochissimo. Chiaro, la famiglia singola che si lamenta può essere rilevante. Un gruppo di famiglie su un territorio che si organizza costantemente, che fa sentire la propria voce, anche su un'impresa sociale, ha il proprio peso, diventa determinante, perché poi l'amministratore è attento al consenso, giustamente, e quindi vuole che i servizi siano resi in maniera significativa. Quindi se potessimo noi, Olivero Motta, cominciare a dare, non voglio dire delle istruzioni per l'uso, nessuno, io non ho questa presunzione, ma delle indicazioni, dovremmo dire alle famiglie: non rimanete sole, non vi isolate, non vi sentite disperati, ma cominciate a cercarvi intorno e guardare quanti sono nelle vostre condizioni e consociatevi in qualche maniera. Questo secondo me è la prima cosa, non è un caso che le grandi fondazioni di erogazione, cito la Fondazione Caribro per esempio, oggi hanno un'attenzione molto precisa proprio sull'obiettivo di creare coesione sociale, perché quella è l'emergenza fondamentale e quello a mio parere è un elemento che può svolgere un'impresa sociale, cioè non guardare solo ovviamente al giusto ristorno rispetto alla propria attività, ma anche alla coesione, alla relazione che crea sul territorio. Per esempio esistono molte cooperative purtroppo, diciamo così, fasulle. Le vere cooperative sono quelle per esempio della proprietà condivisa, cioè i lavoratori sono anche i soci proprietari di quella impresa lì. Fermo un attimo, Stefania, ascoltatrice, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e complimenti. Andiamo al punto, siamo veloci perché oggi veramente ho tantissime persone. Allora, noi siamo genitori, io sono Stefania Piccini, sono socio volontario di una cooperativa, presidente di un'altra cooperativa, genitori che si sono messi insieme per costituire delle cooperative sociali di tipo B, che attualmente sono tre, abbiamo un ristorante. Finalizzate a cosa? Finalizzate a cosa? Qual è il problema? Finalizzate all'inclusione sociale lavorativa dei nostri figli e altri ragazzi disabili intellettivi. Cosa sono? Quindi diciamo dello spettro autistico, queste cose qua? Sì, down. Con ritardo mentale, vari sindromi, e sono soci lavoratori dell'azienda. E vi funziona l'azienda? Con difficoltà sì, tanta difficoltà, perché la prima azienda è nata assolutamente con zero contributo pubblico di nessun tipo, perché non sapevamo neanche come costituire una cooperativa sociale di tipo B. Sì, se pensiamo ai contributi pubblici, cosa vanno a finanziare alla fine? Abbiamo cominciato a capire che la provincia di Firenze poteva dare degli incentivi per le assunzioni su persone, sulla legge 68, e quindi abbiamo utilizzato questi incentivi, che comunque sono per tutte le aziende, non soltanto per le cooperative sociali di tipo B. E abbiamo visto che i nostri ragazzi, non tutti, avendo anche un'associazione, avrebbero potuto lavorare nel settore della ristorazione. Quale sarebbe stata l'alternativa, Stefania, dei vostri ragazzi? Il punto era questo: dopo averli fatto impegnare con tanto sforzo e fatica ognuno per tutto il periodo scolastico, sì, sarebbero andati in centri diurni che sono assolutamente situazioni buone, ideali, una volta, adesso assolutamente obsoleti, perché se mio figlio sta in una scuola alberghiera e gli viene spronato per imparare a fare il cameriere, non capisco perché poi debba andare in un centro diurno a far finta di fare le scatole che poi si fanno il giorno e si disfano la sera. Diciamo che anche l'idea del diurno è un grande parcheggio, però non si considera che la vita di un disabile è una vita lunga, c'è una aspettativa lunga. Cosa farà quando avrà 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni? Michele Colangelo. Sì. Io però riporterei ragionamento anche al ruolo dello Stato, che naturalmente deve continuare, perché io noto un grande rischio, il rischio del modello inglese dove tutto si fonda su fondazioni e imprese. Il rischio qual è? Che un paese come l'Italia, che non è l'Inghilterra, il rischio è che il disabile si trovi nella condizione di perdere i diritti e di dover accedere ai servizi attraverso quell'associazione che te lo permette o meno. Tu dici diventano tanto bravi che lo Stato dice: beh, allora fate da voi, io non c'entro più. Ma questo è proprio il tentativo che le associazioni vogliono fare e che io trovo pericoloso. E come se ne esce allora, Michele? Come se ne esce? Consigliati. Se ne esce che lo Stato deve sì finanziare Lo capisci che di fronte alla disperazione alla fine è auspicabile che le persone comunque si diano una sveglia, ma però qual è il punto di caduta? No, allora io ritengo che questo sia utile e virtuoso, ritengo solo che lo Stato debba esercitare il controllo serio su ogni euro che viene investito per il sociale e deve controllare effettivamente che la vita buona delle persone si sia realizzata, quindi io credo che il controllo pubblico sulle attività debba rimanere, perché altrimenti diventa una giungla selvaggia, soprattutto in un paese come l'Italia che sinceramente ancora non ha una maturità di questo tipo. Senti Michele, solo una battuta, qual è l'alternativa a questo? La madre l'ha soltanto accennata, un disabile quando non è più seguito personalmente, non è più assistito, quando uno ha un figlio disabile, comincia ad avere 14-15 anni, comincia a sentire che si allenta alle briglie, tutti dicono beh, ormai cosa possiamo fare più, non ci sono più terapie, non c'è più assistenza, non c'è più domiciliare, qual è l'alternativa? No, l'alternativa deve essere questa, che lo Stato deve assolutamente prendere in carico la persona fino a fine vita e tant'è vero che, ripeto, sempre Roma Capitale nella sua riforma della domiciliare dice che considera l'H24 una risorsa e considera, al di là dei budget prefissati, anche le condizioni di massima gravità, naturalmente con relazioni opportune e con un controllo opportuno, ma nessuno deve rimanere fuori, si tratta di ripartire la spesa in maniera da rendere equilibrato il sistema. Oggi c'è sperequazione, vi faccio un solo esempio: a Roma un municipio come il primo spende 16.000 euro pro capita persona l'anno, il sesto municipio ne spende 6.000. Evidentemente vi sono state sperequazioni frutto di trattative politiche che hanno privilegiato questo o quel municipio. Io spero, Michele Colangelo, se mai abbiamo possibilità di avere voce in capitolo, di riuscire a mettere una pulce nell'orecchio alla politica, che su questo settore non si scherza più, non si gioca più sulla pelle delle persone, perché le persone non sono più passive, non hanno più voglia di subire, di stare a guardare solo perché hanno un problema in più degli altri. Melog, la realtà condivisa. Stiamo tirando le fila, non conclusive perché Radio 24 continuerà con questo impegno, comunque di una settimana dedicata al sociale, e che Radio 24 ha strutturato e articolato nei suoi programmi, nei servizi dell'edizione del suo giornale, assieme appunto a Redattore Sociale, che è l'agenzia di stampa che si occupa di terzo settore. Stiamo toccando questa mattina la possibilità, ma il terreno è molto frastagliato, impervio, difficile da percorrere, non ci sono mai certezze, ma stiamo chiamando in causa le persone che hanno un'esperienza concreta, reale, non quelli che teorizzano. Stiamo cercando, come dicevo, di capire se mai fosse possibile trasformare questo grande mondo variegato, in cui pare che di soldi alla fine ne girano tanti, come questi soldi riescano ad arrivare nella maggior percentuale possibile verso il loro terminale ultimo, cioè la persona che ha bisogno. Marina, buongiorno. Sì, un'ascoltatrice, buongiorno. Sì. Senta, io volevo un po' forse tirare le file, insomma, dare un piccolo contributo all'intervento della signora che aveva creato la cooperativa per far lavorare, per l'inserimento lavorativo, sì, dei figli disabili, e l'ultimo ospite che ha parlato del fatto che lo Stato si deve far carico di queste persone. Sì, ha detto Michele Colangelo, dice attenzione però che tutta questa attività di spontanea creazione di occasioni di lavoro, di occasioni alternative, faccia sì che un domani lo Stato dica vabbè, fate da voi, siete tanto bravi, io mi tiro indietro. Non deve essere così, naturalmente. Guardi, proprio questo era il mio punto. Allora, l'ho vissuto, lo vivo quotidianamente con figli miei, altre famiglie. Il problema di qua è che lo Stato deve mettere i fondi. Perché? Perché le famiglie, quando intraprendono in quel modo, in vari modi, nei vari modi che avete sentito, e allo stesso tempo, mentre fanno una cosa molto utile, si esauriscono, e sono le famiglie che poi con il tempo esauriscono le risorse finanziarie, le risorse fisiche, eccetera, per occuparsi dal punto di vista anche affettivo. Sì, andiamo al punto, Marina, cosa vuol dire? Andando al punto, lo Stato però non è sempre in grado di occuparsi, il Comune taglia i fondi perché non sa dove metterli, le ASL mettono i disabili in questi centri. La mia esperienza è che qua ha funzionato qualcosa nel momento in cui io sono andata a dirle: guardate, le esigenze allo Stato, diciamo così, le esigenze dei disabili sono queste, le esigenze dei disabili giovani sono queste, non ci sono luoghi di aggregazione, non c'è. allora, la possibilità di meditare, di ragionare su un tavolo dove lo Stato, che sono la ASL, i comuni, le regioni, eccetera, incontrano queste realtà locali, perché non ci sono. Ci sono le famiglie, le associazioni che vanno a mendicare al comune, alla ASL, i servizi. E lo Marina, Stato scusi se la interrompo, perché sennò usciamo dal problema centrale. Il problema è che ci devono essere dei moduli realizzativi ben precisi, concreti. Le famiglie non sapere cosa bisogna fare, non chiedere vagamente. Non è che serve la sala parrocchiale per fare attività varie. Serve un luogo dove sia strutturato un progetto di vita che non è solamente il mantenimento di alcune ore perché le famiglie possano respirare, no, dovrebbe essere strutturato sul territorio, in ogni municipio, un luogo ideale, una città ideale in cui queste persone possano pensare che lì sarà la loro vita, come lei esce o io esco ogni mattina e vado a lavorare, so qual è il mio posto di lavoro o il posto dove svolgo le mie attività. Anche un disabile è giusto che abbia un suo punto di riferimento. Valentina Furlanetto, buongiorno. Sì, buongiorno a te, Gianluca. Allora, Valentina Furlanetto ci ha aiutato molto ieri, è la collega che voi conoscete bene perché conduce Indovina chi viene a cena e la sentite spesso nei servizi del giornale, che ha scritto un libro di cui si sta parlando molto in queste ultime settimane, L'industria della carità, da storie e testimonianze inedite, il volto nascosto e la beneficenza, editore Chiare Lettere. Il tuo libro, l'abbiamo già detto ieri, abbraccia uno spettro molto vasto, le grandi organizzazioni internazionali, le ONG, ma se restringiamo la tua ottica, la tua indagine, la tua esperienza alle piccole, alle nostre realtà nazionali. Cosa hai da commentare, aggiungere rispetto a quello che si è detto finora? Allora, il mio libro parla proprio dell'Italia, ma lasciamo stare il libro, quindi va bene, ma la trasmissione è molto interessante. Volevo parlare di due punti di cui avete parlato. Parlava Colangelo, diceva, il sociale è già trattato come un'impresa, no? E tu chiedevi, ma si può trattare il sociale come un'impresa in maniera efficace? Ecco, la mia opinione, per quello che ho visto, per i dati che ho raccolto, per le testimonianze che ho avuto, è che delle imprese, del business, ha ormai tutti i vizi, ma non le virtù. Allora, tra i vizi io metterei il fatto, e questo anche appunto per le associazioni che dicevi che si occupano d'Italia, no? Il fatto che abbia assunto anche il linguaggio delle imprese, no? Accountability, report, governance, poi che ci siano investimenti da parte di queste associazioni, talvolta in bot, obbligazioni e quant'altro, invece che usare questo denaro. Poi fatto che siano vicini alla problema, politica. Lo stesso problema dei finanziamenti pubblici dei partiti. Siamo accorti che i partiti avevano i soldi di finanziamento pubblico, tutti, li investivano. Non tutti, Gianluca, ma qualcuno... è importantissimo che sottolineare ogni volta, perché altrimenti screditiamo tutte queste persone che fanno, sicuramente mettono a disposizione tempo, professionalità e quant'altro. Bisogna distinguere, come in tutti i settori. Però accade anche questo. Poi il fatto che ci siano situazioni anche nella nostra capitale morale, no? Di truffa vere e proprie. È stato arrestato il segretario generale dell'Istituto Cecchi di Milano poco tempo fa per corruzione, falso, truffa ai danni dello Stato. La questione dell'asilo Mariuccia, per quanto riguarda, sapete tutti, un istituto per minori della regione Lombardia, anche lì si prendevano soldi dalla regione e in cassa tu si avevano molti milioni. È diventato un luogo, una frase comune dire, sì, non facciamo Mariuccia. Come l'asilo Mariuccia. Che significa però un'altra cosa a Milano, ma insomma l'asilo Mariuccia è un'istituzione per la carità lombarda, no? Insomma, ci sono dei vizi che sono stati assunti dall'atteggiamento, diciamo così, più così da business, no? Per non dire del passaggio di consegne, del passaggio di testimone da padre e figlio all'interno del Cuneo Onlus ONG, cosa che neanche te, un Berlusconi, un Caltagirone, no? Però vedi, avviene come è lo stesso vizio di cui noi stiamo accusando la politica adesso. Ma le virtù è questo che io dico, no? È il modello, cioè, possibile. Il modello, visto che hanno adottato delle pratiche vicine al mercato, avrebbero dovuto prendere a prestito dal mercato anche l'efficienza, no? Brava, e la trasparenza dei conti, ne abbiamo parlato anche ieri, non esiste un obbligo di pubblicare un bilancio, e poi l'efficienza, il fatto che si debba rendere conto di quello che si fa. Invece nessuno rende conto alle ONLUS, alle ONG, dell'esito positivo o meno del progetto che porta avanti, quindi si trovano in questa terra di mezzo, non più dure, pure e volontaristiche, non più efficienti, non ancora efficienti. Seconda cosa che volevo sottolineare, Colangelo sempre diceva attenzione al ruolo dello Stato, no? Il rischio al modello inglese. Anche qui, il rischio al modello inglese senza le virtù del modello inglese, quindi l'efficienza e la trasparenza. Tra l'altro, il ruolo dello Stato è importantissimo perché siamo in campagna elettorale. Io non vedo questi temi nell'agenda politica. Esattamente quello che dicevo anch'io. Allora, non ti sembra singolare però? No, scusami, singolare è poco. Voglio dire, sei generoso perché è assurdo. No, noi spendiamo per il welfare. Valentina, no, singolare sì. È la cosa più cattiva che possa dire. I politici stanno razzolando ovunque comunque. Com'è non si fanno l'idea che questo è un grande bacino di voti? Perché gli italiani, secondo me, sono un po' troppo buoni, sono ingenui e pensano di fare da sé, quindi fondare l'associazione sotto casa, darsi da fare, tirarsi sulle maniche, che va bene, va benissimo, ma non basta. Il disabile non deve essere solo, non deve essere assolutamente simpatico, ha il diritto di essere antipatico e non per questo non ha diritto ad avere sostegno, servizi e quant'altro, no? Allora, soltanto una garanzia di servizi di Stato che non guarda in faccia chi sei, no? Come il Servizio Sanitario Nazionale non guarda se sei simpatico o no, se ti trova ferito per strada. Ecco, questo sia diritto. Le associazioni vanno benissimo, però un'associazione, la beneficenza, la filantropia, è un esercizio di potere senza controllo democratico. Quindi si sceglie se andare incontro alla ricerca sul cancro invece che a un'altra malattia che è meno comune, meno simpatica, meno diffusa, meno e popolare. Nasce la guerra tra poveri che è detestabile. E questo è rischioso, per cui lo Stato va benissimo l'iniziativa personale, ma va potenziato il welfare di Stato che al momento è la metà degli altri paesi europei. E noi ce ne stiamo dimenticando perché ci diamo da fare, va bene darsi da fare. Lo sai però, Valentina, ti posso dire, apro una parentesi extra professionale, ma l'ho fatto spesso. Io il problema lo conosco bene perché lo vivo in famiglia. Arrivi a un punto di esasperazione tale, di tempo perso, di giornate interminabili da fare, avere rapporti con la burocrazia dello Stato, che logicamente, siccome il problema ce l'hai in casa e ti cresce tutti i giorni, ti tiri sulle mani e dici: beh, io faccio da solo. So che è sbagliato, esattamente. No, non è sbagliato, ma bisogna vivere la propria vita. Deve essere una parte, capisci? Sì, sì. Cioè, quello che per quei dati che ho raccolto io, deve essere una parte, deve essere controllata, deve essere efficiente, deve essere trasparente. Quella parte privata. Invece lo Stato, siccome ha un po', no, trascurato questa parte, e forse io credo abbia chiuso anche un occhio sulla trasparenza e l'efficienza, proprio perché sapeva che tutto sommato ci pensavano loro, no? Un po' come gli ammortizzatori sociali, ci pensa la famiglia, ci pensano i genitori e quindi chiudiamo un po' un occhio. Perlomeno non è un'emergenza, a parte quelli che votano, come dicevi tu, sì, queste persone. Diciamo, no? C'è stato un periodo che sono visti sotto Montecitorio con le sedie a rotelle facendo lo sciopero della fame. Certo, l'abbiamo seguite anche a Radio 24, sì, hai ragione a ricordarlo. Sì, finito questo momento, sembra che il problema sia risolto, non è risolto. Melog, la realtà condivisa. .800 24 0024, ci stiamo avviando alla conclusione di questa di questo zoom che abbiamo fatto, quest'ottica approfondita per quanto è possibile nel grande mondo delle categorie deboli, del terzo settore, dei rapporti fra Stato, famiglie, fra volontariato, fra impresa. Questa settimana è stata condotta da Radio 24 con la collaborazione di Redattore Sociale. Abbiamo al telefono a questo punto Francesca Faggi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Francesca Faggi è una psicoterapeuta, opera nella Fondazione Opera Santa Rita, che in convenzione con la SL di Prato assiste persone con autismo da 22 anni. Rispetto a quello che abbiamo detto, cosa ha da aggiungere nella sua esperienza specifica, nel rapporto stretto poi con quelle che sono le propaggini dell'amministrazione di una città? Allora, io porto un'esperienza molto particolare, che è quella della presa in carico delle persone con autismo che hanno bisogni molto particolari su tutto l'arco della vita, che vanno differenziati perché le persone con autismo sono molto diverse tra loro. La nostra esperienza è molto particolare, ma devo dire anche molto positiva. Siamo riusciti a creare insieme ai referenti della nostra ASL territoriale servizi che sono molteplici, vanno dall'ambulatorio alla residenza, differenziati per età, per competenze delle persone, quindi molto servizi piccoli di dimensioni, con il presupposto che bisogna offrire servizi altamente qualificati e specializzati e di piccole dimensioni, che quindi rispondono a quelli che sono i bisogni delle persone. la realtà di Prato è una realtà molto particolare e devo dire sono anche fortunata nel perché conosco anche molte realtà di altri territori. Però diciamo, ecco, diciamo in un centro dal territorio circoscrivibile e controllabile è abbastanza più facile che in un centro in cui c'è maggiore complessità. Assolutamente, so che per esempio conosco bene anche la realtà fiorentina che è una situazione molto diversa dalla nostra. Noi siamo riusciti a creare un percorso di presa in carico dai bambini più piccoli, molto piccoli appena. Ecco, ma la vostra presa in carico, presa in carico di questi soggetti, fino a che età arriva del soggetto? Noi abbiamo anche persone adulte, quindi abbiamo persone anche di 35-40 anni. Certo, sono percorsi differenti, differenziati sul loro livello di gravità, ma anche sulla loro età. Quindi noi abbiamo 5 servizi all'interno della nostra fondazione, tutti in convenzione, sono servizi sanitari. Allora fermiamoci, facciamo un passo avanti. Ieri abbiamo sentito un ascoltatore che ha fondato con dei genitori una cooperativa che gestiva un agriturismo in una scuola romana, coinvolgendo il preside di una scuola. Questa persona era Maurizio Ferraro, vediamo se ha il telefono. Maurizio Ferraro, c'è ancora? Pronto? Sì. Sì. Ah no, è il preside della scuola, Franco? Pronto? No, sì, è così Gianluca. Con chi sono? Sono qui. Vabbè, Maurizio Ferraro. Concludiamo perché voglio sapere concretamente come è stato risolto il problema. Guarda, ho qui con me tra l'altro il preside della scuola, però due cose rapidissime. La scuola qual è? Il tecnico agrario la Giuseppe Garibaldi? Il tecnico agrario Garibaldi di Roma, sì, l'istituto di agraria. Dove l'ho detto, abbiamo 2 ettari di terreno per fare il nostro orto e un piccolo podere dove stiamo attivando questo agriturismo, perché insomma la razza amministrativa è lunga. No, cioè una cosa molto semplice, quando siamo partiti qui e abbiamo fatto questa proposta come genitori al preside, siamo partiti dal presupposto che il danno che stiamo subendo, la nostra è un'associazione di ragazzi autistici, Gianluca, è fatto, cioè questa cosa che sentivo, lo Stato si interessa i soldi, i fondi, ma poi le famiglie fanno da sole. Qui il problema è uno, ripartire dalla nostra condizione di famiglie, di disabilità e rimetterci al centro come elemento motore, non come, cioè come momento di... Non come alternativa, testa, ecco. Capisci? Cioè il punto è che i soldi dello Stato servono, ma serve anche ricostruire una progettualità di impresa che non è quella della gestione dei fondi che lo Stato ti dà per assistere, ma rimettersi sul mercato. Noi lavoriamo nel primo settore, pur essendo una cooperativa fatta da ragazzi disabili, noi produciamo, abbiamo i banchetti nel mercato, chiediamo le licenze, siamo in un consorzio a testaccio al centro. Sì, però hai trovato una scuola che ti ha permesso di fare questo. Ho trovato una scuola che ha fatto cosa? È riuscita a prendere e ad attivare tutte le buone prassi che hanno messo poi in movimento l'ASL, il municipio, eccetera, che insieme ci hanno dato la possibilità di farlo. Ma il preside è con te. Sì, velocemente. Via, sì. Così lui, ok. Pronto? Buongiorno, Franco Sapia, che è preside dell'Istituto Agrario, Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi. Ecco, com'è sì. stato possibile? Lei ha dovuto forzare quelle che sono le norme, no, le regole? O ci sono tutti, diciamo, gli elementi necessari, basta la buona volontà? Non abbiamo forzato nessuna norma, perché la Costituzione italiana, la legge fondamentale dello Stato, dice che la scuola è aperta a tutti. E perciò noi non abbiamo problemi per accogliere le iscrizioni che arrivano e ci attiviamo poi per mettere in moto ogni iniziativa che garantisce una formazione adeguata, poiché tutti gli istituti agrari hanno un'azienda annessa, dico non solo la nostra, sono tutti gli istituti agrari, noi ne abbiamo una di 80 ettari che un polmone verde all'interno del tessuto urbano di Roma. Quindi abbiamo l'istituto agrario è una buona soluzione in linea di massima per noi. Abbiamo un terreno più facile dove poter garantire sia l'integrazione ma anche un programma che possa assicurare a questi ragazzi un futuro migliore dove loro sono coinvolti. Voglio dire, la creazione della cooperativa per noi è nata con molta spontaneità, cioè dire questa cooperativa per noi non è altro che un laboratorio, ma un laboratorio che porta i suoi risultati perché è autonomo, produce, c'è il posto di ristoro, c'è, come diceva Maurizio Ferraro, questi punti di vendita tutti regolari. Quindi cammina con le sue gambe, per usare un termine. Cammina con le sue gambe, ma il vantaggio è che praticamente l'istituzione scolastica se ne avvantaggia, perché l'attività che svolgiamo porta un grande beneficio ai nostri studenti normodotati, perché poi abbiamo lo studente tutor che sostiene queste attività. Una battuta, preside, ma perché non accade anche negli altri istituti agrari? E questo praticamente posso solo auspicare che piano piano in tutti, almeno negli istituti agrari, che ce ne sono diffusi tanti nel territorio nazionale, questa iniziativa possa essere presa come modello. C'è stata pure un'interrogazione parlamentare sull'argomento 2 anni fa, poi non lo so come è andata a finire. Fatto sta che noi facciamo tutto secondo la normativa, la legge sull'autonomia scolastica, anche il decreto interministeriale 44 ci dice l'azienda deve essere produttiva. Ebbene, io dico che questa prima azione produttiva avviene da questa cooperativa, che secondo me adesso vedrà, migliorerà ancora, perché noi indirizzeremo parte delle nostre risorse umane e anche finanziarie perché questa cooperativa ha dato funzioni. Preside, la lascio perché la sigla ci dice che dobbiamo interrompere. Interrompiamo questa puntata, non interrompiamo la nostra attenzione. Hai visto? Il mondo è complicato, il mondo è variegato, ma delle soluzioni positive comunque possono esserci. Le troveremo.